Elba, 29 agosto 1967. Care Luterio, sono qui con il mare immobile davanti e un bambino mobilissimo di dietro e anche di sopra, perché di tanto in tanto mi passa sulla schiena per gioco. Il bambino, intendo. Settembre vicino e scrive con nuovi colori la sua presenza sulla spiaggia. Una ragazza sta prendendo lezioni di nuoto. E io penso che l'insegnante di nuoto è solo un uomo che ci cinge la vita per farci ballare uno slow orizzontale. E penso anche che sei un deficiente pericoloso. Non si riduce un albergo così come lo hai ridotto tu solo perché io, poverina, ho organizzato una caccia al tesoro per ammazzare il tempo. Sempre tua. Roma, 30 agosto 1967. Inammissibile sempre mia. Anche qui settembre vicino. E scrive con i suoi colori il suo arrivo imminente. Riempie di scampoli le vetrine e toglie dalle saracinesche gli ultimi cartelli di chiusura estiva. Come al solito hai sbagliato tutto. Stai davanti ad un mare immobile. E invece dovresti essere tu immobile di quella immobilità per la quale non c'è rimedio. Ma pazienza, io so aspettare. Non parliamo di caccia al tesoro. Sabato, quando verrò, parleremo moltissimo, tu e io, Eleuterio. Ho scritto, il secchio della spazzatura è pieno. Dov'è che se ne compra un altro? Elba, 31 agosto 1967. Care Eleuterio, micettaccio! Proprio come Neri chiamò Giannetto nella cena delle beffe. E va bene, scusa, una caccia al tesoro senza premi sarebbe come un Ruggero Orlando senza mosse. C'erano i premi e tutti hanno offerto chi più chi meno. Il secchio della spazzatura non si ricompra. Quando è pieno lo si vuota, poi lo si riempie con altra spazzatura e così via. Sono triste per le cose che mi hai detto rompendo la piattaia piena di piatti. Sì, guardo il mare che ho davanti e penso che in fondo il mare è solo una piscina che ha fatto fortuna. E per fortuna sabato tornerai e parleremo. Sempre tua. Roma, 1 settembre 1967. Invendibile sempre mia. Settembre, oltre ad autografare la vita con i suoi malinconici colori, comincia a scrivere la parola fine sulle villeggiature, anche sulla tua. Tornerai qui e ti metterò in officina per una revisione. Tu non sei una donna, tu sei una macchina che ragiona come può e quando può. Una bella officina con tanti lettini bianchi e le pareti imbottite, lì i tuoi colpi di testa verranno attutiti. Qualche premio? Perché non dettagli? Perché? Hai dimenticato i particolari? Io no. No, hai capito? No! Eleuterio. L'ho scritto. Ho vuotato il secchio della spazzatura. Poi l'ho riempito di nuovo e siamo allo stesso punto. Ho sempre un secchio pieno di spazzatura. Beh. Elba, 2 settembre 1967. Care Eleuterio, micione. Certo che ricordo i dettagli. Non dettaglio per non dilungarmi. Stasera il mare è mosso e sopra c'è la luna. Piena. E io penso che la luna piena è solo un bianco zero in condotta sulla pagella del mare cattivo, come te. Ricordo tutto perfettamente, Eleuterio. Stavamo come al solito a guardare fuori, poco prima di cena e... Eleuterio, adesso è notte, ma poi piano piano tornerà il giorno. È un pensiero tutto tuo o ti sei fatta aiutare per corrispondenza da Tata Giacobetti? Eleuterio, tutto ha un limite. Ritira il Giacobetti. Hai ragione, scusa. Il pensiero è tutto mio. E quando tornerà il giorno, sarà il grande giorno. Le macchine romperanno, le grida festose riempiranno l'aria. È una giornata di sano divertimento, allieterà tutti. Che cos'è, una prosa della Peverelli? No, Eleuterio, è una descrizione di quello che avverrà domani, durante la caccia al tesoro. Tu sarai nella macchina della giuria. Io, e perché? Mi divertirei di più a giocare, no? Ma non puoi. Se poi vinci il primo premio, sembra brutto. Lo hai messo in palio tu. Io? Tu, grazie a me. Ecco, sono stata io a nome tuo. E in che cosa consiste questo primo premio? Tu, niente, due posti per una crociera in Oriente, però in prima classe, solo 20 giorni. Solo? Sì, c'erano anche più lunghe, Eleuterio, ma tuo fratello non mi ha potuto prestare più di 2 milioni. Che potevo fare? 2 milioni? Eleuterio, stai fermo con le orecchie e tira dentro gli occhi. Lo sai che quando fai le boccacce non mi piaci. Non sto facendo le boccacce, sto cercando di imitare tua madre e vedere se davanti ad un viso che ti è caro riesci a cambiare per un attimo il cervello. Dimmi che stai scherzando. No, Eleuterio, non scherzo, stai tranquillo. Lo so che la caccia al tesoro ti diverte. Non è uno scherzo. Vedi? I biglietti li ho qui. Dammeli. No. Saresti capace di andarli a rivendere a metà prezzo. Dai qua. No, Eleuterio, non sta bene passeggiare nervosamente sul tavolo. Scendi. No, non scendo. E tu non te ne andare, vieni qui. Metti giù quella piattaia, Eleuterio. Non fare scandali. La mamma ci potrebbe sentire. La mamma? E dov'è la mamma? È di sopra che dorme. L'ho fatta venire perché domani deve dare il via alla gara. E dov'è la simpatica signora? Falla scendere. Le devo dire solo che... Eleuterio! Va bene, glielo dirò in un altro modo, ma dov'è? Posa la piattaia. La poso. Sta a guardare. 1, 2 e 3. Aiuto, fermate! Aspetta, concierge! Ricordo tutto, Eleuterio. Ti comportasti proprio male. Ma quando tornerai io, che sono buona e comprensiva, lo dice anche la mamma. Non ti starò a dire più niente. Ti verrò incontro con il perdono scritto in un radioso sorriso e... Ciao. Ciao, Eleuterio. Bentornato all'Elba. È pronto in tavola, ma prima dovresti mettere in libertà quello della macchina da noleggio. Poverino, ha portato i vincitori della caccia al tesoro fino all'imbarco a Napoli. Si tratta solo di pagare la fattura. Elba, Napoli, andata e ritorno.